Ripercorriamo in questa nostra meditazione quello che abbiamo vissuto durante la celebrazione del Venerdì Santo nella Passione del Signore. Riprendiamo la meditazione dei testi che abbiamo letto in quella celebrazione. E innanzitutto, come ricordate, abbiamo cominciato con la lettura dal libro del profeta Isaia, capitolo 52. È una parte del canto del servo di Dio. E in questo testo abbiamo scoperto, riscoperto una serie di particolari che riguardano come profezia la passione di Gesù. Ne rileggo alcuni brani. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. E a me tornavano in mente alcune parole di Giovanni Paolo II, del beato Giovanni Paolo II, a pochi giorni dalla sua canonizzazione. Ricordo che in quell'anno, nel 1987, ero a Verona e Giovanni Paolo II fece visita a quella città e si era nel tempo pasquale e incontrò i giovani nell'arena di Verona. Aveva preparato un discorso come sempre, ma come qualche volta faceva lo lasciò da parte e parlò a braccio. Poco prima c'era stata una coreografia, una danza di alcuni giovani. Davanti a lui piaceva molto la danza come arte del linguaggio del corpo e voleva esprimere così la sua riflessione. E lui diceva: se l'uomo è capace di trasmettere la parola, di esprimersi, di parlare anche con il suo corpo, il linguaggio del corpo, è chiaro che l'uomo deve essere capace anche di ascoltare, di ricevere la parola. E si riferiva al Vangelo e alla Bibbia, alla parola di Dio. E in quel momento si ricorda e descrive l'incontro di Gesù risorto con i due discepoli di Emmaus e il fatto che Gesù spiega loro con la parola di Dio, con le scritture, no, dell'Antico Testamento, il significato di quello che è successo. Lo diceva con queste parole. È lo stupendo colloquio dei due discepoli che vanno ad Emmaus con un pellegrino, un altro itinerante, ignoto, e parlano con lui. Hanno aperto il loro cuore, hanno presentato le loro angosce dopo la passione e morte di Cristo, il Messia, a Gerusalemme. E probabilmente fuggivano da Gerusalemme per non essere in pericolo quali discepoli del Maestro. E dopo le loro confidenze l'ignoto ha cominciato a parlare. E ha fatto una stupenda catechesi basandosi su tutta la tradizione veterotestamentaria, sui profeti, per spiegare che non poteva essere altrimenti, che quelli che essi aspettavano e che avevano trovato come Messia non poteva non soffrire. E cercava di presentare loro come nel Vecchio Testamento tutto ciò era già presente. E lo sappiamo che era presente soprattutto nei profeti, in particolare in Isaia. Sono cose stupende. Isaia è uno che vede. Per esempio, la passione di Cristo meglio di qualsiasi evangelista nella sua epoca, secoli prima. Il famoso cantico del servo di Yahweh è veramente una descrizione quasi da testimone oculare della passione di Cristo, più commovente, più esatta di ogni narrazione evangelica. E mi venivano in mente queste parole quando poi leggevamo, per esempio, maltrattato, si lasciò umiliare, non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. e così come anche più avanti gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. E continuava il Papa, allora Cristo, essi non sapevano che era Cristo, ha cercato di parlare ai due suoi compagni di strada, di presentare loro come nel Vecchio Testamento era presente tutto ciò, come il Messia doveva soffrire. E loro ascoltavano, ascoltavano certamente con un atteggiamento buono, con apertura di cuore, erano forse anche pronti ad accogliere quello che diceva, ma la verità era sempre troppo difficile. L'esperienza del Venerdì Santo era ancora troppo vicina, troppo sconvolgente. Non potevano capire il Messia, il Figlio di Dio, condannato a morte, crocifisso, morto. E alla fine viene ancora una parola che non è più una parola, ma è il pane. Hanno spezzato il pane e in quel momento hanno capito, sì, lo hanno riconosciuto, è lui. Carissimi, è una stupenda narrazione biblica di come Cristo parla ai suoi discepoli, questi due di Emmaus, ma anche similmente a tutti noi. Così parla, così vuole parlare, così vuole conversare con noi, bisogna aprirci, bisogna ascoltare, bisogna cercare di capire, bisogna oltrepassare i limiti, perché tutto ciò che è divino, che è rivelato, che è soprannaturale, è superiore all'umano, ai nostri limiti. E molti non lo accettano perché non vogliono, non possono oltrepassare questi limiti. C'è una stupenda lezione che ci presenta come si deve ascoltare la parola di Dio e come quella parola ultima, decisiva, è l'Eucaristia. Ho conosciuto tante persone molto colte, scienziati, altri che avevano difficoltà con la fede. Alla fine dicevano, vado alla confessione, vado alla comunione, e tutto era risolto. Ecco, lui, il Papa Giovanni Paolo II, diceva ai giovani che aveva tratto questa riflessione dai loro canti, dalle loro danze, e aveva pensato a quel linguaggio che esprime il profondo mistero dell'essere umano, che anche prega, ci ricordiamo come lo stesso Davide pregava danzando, e in molte tradizioni ci sono queste danze come preghiera. E allora questo linguaggio del corpo lo portava a pensare al linguaggio di Dio che si rivela, a Gesù che ci parla con la sua passione. E nel Venerdì Santo Gesù in modo particolare ci parla con la sua passione e ci ricorda che l'amore di Dio è così grande e che è in grado di perdonare tutti i peccati. È come se Gesù anche avesse usato il linguaggio del corpo, donando il suo corpo e il suo sangue. Si intendeva che nel sangue fosse l'origine della vita. Significa donare, ecco, tutto ciò che il Signore gli aveva donato nel grembo di Maria, il dono della vita. Lo restituisce al Padre e in qualche modo lo restituisce anche alla sua sposa che è la Chiesa, facendola vivere, facendola nascere. Dal colpo di lancia del costato, ecco, la tradizione della Chiesa ha visto nascere la Chiesa, come dal costato di Adamo nacque Eva. E quindi noi siamo molto colpiti dall'essere introdotti a leggere la passione di Cristo secondo Giovanni, come si legge nel Rito Romano, nella celebrazione del Venerdì Santo, dalle parole di Isaia, dalle profezie dell'Antico Testamento. Isaia dice: al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Vedete come tutta la positività della redenzione è già presente, anche se in nuce, nella profezia. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà alle loro iniquità, perciò io gli darò in premio le moltitudini. perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. È come se il profeta Isaia, letto nella prima lettura, ci introducesse, ci desse già la chiave di lettura di quello che racconta Giovanni nella passione del Signore secondo il suo Vangelo. E perché in qualche modo Giovanni racconta i fatti, come tutti gli altri evangelisti, ciascuno di loro ha delle peculiarità, l'essenziale è raccontato da tutti, ma ciascuno mette in evidenza alcuni particolari, alcuni aspetti. A me colpiva nel rileggere questa passione secondo Giovanni che inizia il racconto della passione in un giardino. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli, un giardino nel quale era abitudine per lui andare con i suoi discepoli, tanto che Giuda sa che lui è lì e lo trova a colpo sicuro. E si conclude anche con un altro giardino, il giardino dove si trova il sepolcro. Nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parascene dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. È come se tra questi due giardini fosse racchiusa tutta la storia dell'umanità. Pensate al primo giardino dove l'uomo fu creato, il giardino del paradiso terrestre e il giardino del paradiso futuro, dei nuovi cieli e della nuova terra a cui tutti siamo chiamati. Tutta la storia dell'umanità è racchiusa tra questi due giardini. Il giardino dove Gesù prega nella sua passione e nella sua orazione, ecco, dell'orto dove lui viene catturato e il giardino dove viene deposto e dove risorgerà. Così come mi veniva in mente leggendo, rileggendo queste parole della Passione di San Giovanni, secondo Giovanni, che è in qualche modo, se volete, così scorrerla come un quadro con tanti colori, ci sono tutti i colori della nostra vita, tutte le vicende della nostra esistenza umana, o perlomeno molte. Potete pensare che lì in questa. In queste parole di Giovanni c'è l'amicizia di Gesù con i suoi discepoli, la sua preghiera, c'è il dramma del tradimento, si intersecano le autorità religiose che lo consegnano per invidia con le autorità civili che non lo capiscono, che cercano di difenderlo, la giustizia umana. E le grandezze e le meschinità i piccoli personaggi, pensate a quella giovane portinaia che fa la prima domanda a Pietro, sulla quale Pietro scivola e per la prima volta rinnega Gesù, i piccoli personaggi e i grandi personaggi, le autorità del tempo. Il sommo sacerdote, Pilato, ci sono i soldati, c'è la folla, possiamo dire c'è l'opinione pubblica e c'è la famiglia di Gesù sotto la croce, c'è l'amicizia vera di quel discepolo che segue Gesù da vicino, di cui non si dice il nome e si pensa che sia lo stesso evangelista Giovanni, c'è il compiersi delle profezie. C'è la generosità nascosta degli amici, pensate a Nicodemo che di nascosto e contro, diciamo così, l'opinione generale di tutti i suoi conoscenti, i suoi colleghi del Sinedrio, va a schiodare il corpo di Gesù, chiede il corpo di Gesù e lo ottiene e poi lo riempie di 30 kg di mirra e di aloe, lo cura. Ecco, e allo stesso tempo ci sono gli slanci intellettuali di Pilato a cui piace parlare con Gesù di cose anche elevate e anche il suo scetticismo, che cos'è la verità? I giochi della politica, l'opportunità di non dispiacere a Cesare, di tenere buono questo popolo che era sottomesso. C'è la verità e la menzogna, c'è la chiarezza e la lealtà e invece l'inganno. C'è la tunica di Gesù che è intessuta tutta di un pezzo e quindi è ben fatta, è bella, che viene tirata a sorte dai soldati. Quindi c'è in qualche modo anche il lavoro di Maria. Ecco, d'altra parte un altro modo di rileggere la passione di Gesù secondo Giovanni è vedere, come spesso capita nel Vangelo di San Giovanni, che in questo racconto si alternano le luci e le ombre, no? Quindi il bene e il male, potremmo dire, la virtù e il peccato. Io provo a rileggerlo così. Comincia questo racconto appunto, come dicevamo, con Gesù che va al di là del torrente Cedron. Questa frase ricorda quello che fece Davide quando si sentiva assalito da suo figlio, dall'amico, dal familiare, si sentiva tradito. Va al di là e sta con i suoi discepoli. Questa è una scena familiare, richiama questo luogo, l'Orto degli Olivi, un luogo dove Gesù si trovava bene nella vita di famiglia dei suoi discepoli e anche si trovava bene a pregare. Questo anche noi possiamo pensare che nel Vangelo scopriamo anche le cose che piacciono a Gesù, anche noi, pur sapendo che possiamo pregare dappertutto, sulla cima di un monte, sulla riva di un lago, in piena città, per la strada, su un tram, su un treno, nella nostra stanza o davanti all'Eucaristia, è comprensibile che cerchiamo il luogo dove possiamo pregare meglio. E questa luce di Gesù con il suo affetto, con la sua preghiera, viene contrastata dall'ombra di Giuda che arriva, il traditore, con soldati e guardie, lanterne, fiaccole e armi. Però subito nasce una nuova luce. Gesù che dice, chi cercate? E Gesù Nazareno, sono io. Io sono, quella parola che fa riecheggiare quel Io sono il nome di Dio che Dio rivelò a Mosè. In effetti quella potenza di quella parola fa cadere i soldati a terra. Appena disse loro sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domanda loro di nuovo, chi cercate? E Gesù replicò, vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Ecco, alla luce di Gesù che manifesta in qualche modo la sua divinità, corrisponde invece l'impulso di Pietro che sfodera la spada e dà un colpo anche un po' maldestro, perché poi alla fine non era la sua capacità quella di usare le armi, no? Era più abile con la rete dei pesci. Colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Meno male che la sua imperizia gli ha permesso di fare non troppi danni. E però è un po' ridicola, appare un po' ridicola a noi questa reazione di Pietro, dopo che Gesù con una sola parola aveva sbaragliato quella masnada. C'era bisogno della sua spada. E Gesù, infatti, gli risponde: rimetti la spada nel fodero, il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo. Alla luce di Gesù che dice, beh, se cercate me, lasciate andare questi, difende i suoi discepoli. E corrisponde l'ombra di questi soldati che lo catturano, lo legarono e lo condussero prima da Anna, che era il suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Gesù legato è un'umiliazione profonda, temono che scappi loro, ma si è consegnato lui. Vedete che di fronte alla lealtà di Gesù, alla sua chiarezza, alla potenza del suo donarsi, corrisponde da parte di questi soldati invece la sfiducia, il sospetto, il trattarlo come un malfattore. Non è lui, trattano lui come un traditore, ma non è lui il traditore. E intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E qui vediamo, ecco, a mio parere, la luce di questo discepolo, il coraggio, la fortezza, la determinazione, non ha paura di manifestarsi come suo discepolo, davanti anche a chi lo conosce. E però a questa luce fa contrasto invece l'ombra di Pietro, il quale invece di fronte a questa giovane portinaia che dice a Pietro: non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Lui risponde: non lo sono. Nel guardare questa giovane portinaia e la sua curiosità e anche la sua capacità di osservazione, mi veniva in mente che è una dote molto adatta ad una persona preposta alla cura di una casa, a vedere chi entra e chi esce. È molto attenta, fisionomista, anche se in questo caso forse la sua curiosità non è così limpida, non è così retta, vuole collaborare al male. E forse è l'unico caso, è l'unica così ombra del comportamento di tutte le donne durante la passione. Mi ha sempre colpito molto quella annotazione che io lessi in André Frossard, uno scrittore e giornalista francese famoso convertito, che scrisse anche un libro su Giovanni Paolo II, che diceva, ecco, in tutta la storia della passione del Signore Gesù, le donne sono dalla parte di coloro che non fanno nulla di male, anzi hanno sempre un ruolo positivo. Le donne di Gerusalemme piangono per Gesù, la Veronica asciuga il suo volto nella tradizione, anche se i Vangeli non ne parlano. La moglie di Pilato chiede per favore a Pilato di non occuparsi di quel giusto, di non trattarlo male, e così via. Però questo forse è l'unica piccola eccezione, no? Di una curiosità messa, che se ben intesa è a servizio del bene, e invece qui è messa a servizio un po' di quelli che stanno operando contro Gesù, e questi personaggi cercano un po' di coinvolgere anche i suoi discepoli nella cattura di Gesù e nel suo processo, nella sua condanna. Una piccola luce che, se vogliamo, è proprio una luce solo naturale, quella del fuoco. Le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava, ma è uno scaldarsi solo materiale, invece nel suo cuore c'è il peso di questo primo rinnegamento che lo porterà a rinnegare altre due volte il Signore. La luce di questa notte è data soprattutto da Gesù e anche dalle sue parole. Il sommo sacerdote interroga Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento, e Gesù gli rispose: io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro, ecco, essi sanno che cosa ho detto. E di fronte a questa parola di Gesù così chiara, così oggettiva, così limpida, così, come a dire, non voglio dare testimonianza a me stesso, la testimonianza di un altro sarà più valida. E invece corrisponde a questa parola luminosa la tenebra di uno schiaffo che il servo, una delle guardie presenti, diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: così risponde al sommo sacerdote. Ecco, sono gli atteggiamenti di chi vuole sconsideratamente fare qualcosa per farsi bello di fronte al capo e senza essere richiesto. E gli rispose Gesù, che a questa oscurità di motivazione losca risponde invece con una chiarezza di argomento che non dà adito a un'altra risposta negativa, ma mette la persona di fronte a se stesso e alla sua azione. Gli rispose Gesù: se ho parlato male, dimostrami dove è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Ecco, come potremmo imparare da Gesù tutte le volte che noi o altri, o dobbiamo consigliare altri, che si sentono messi in una situazione di accusa ingiusta, no? Di poter rispondere in questo modo. E per tutta risposta di fronte a questa luminosa chiarezza di Gesù, di nuovo Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Cioè, di fronte alla sua luce, alla sua chiarezza, alla sua lealtà, alla sua limpidezza, alla sua verità, rispondono con una umiliazione ingiusta, con le mani legate. Sperano con questa legatura delle mani di bloccare il processo della sua opera di redenzione e invece lo rafforzano. E di nuovo Pietro è sempre lì a scaldarsi e di nuovo rinnega Gesù per due volte. Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. A questo punto condussero Gesù dalla casa di Caifa. San Giovanni sorvola sul colloquio con Caifa, che è riportato da altri evangelisti, e viene subito al dialogo con Pilato. Anche questo dialogo, a mio parere, è tutto un contrasto di luci e di ombre. Qualche luce, a mio avviso, ce l'ha anche Pilato, che tutto sommato ha una certa disponibilità anche aperta nei confronti di Gesù, forse perché non si fida tanto di quelli che gliel'hanno portato. Che accusa portate contro quest'uomo? E mi sembra una domanda molto corretta di Pilato. Gli risposero: se costui non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Invece corrisponde, da parte di chi glielo consegna, una risposta non altrettanto chiara. E in altri Vangeli si dice che Pilato ha capito che gliel'hanno consegnato per invidia. E Pilato quindi risponde: prendetelo voi, giudicatelo secondo la vostra legge. Mi sembra anche questa una parola positiva, cioè che ciascuno si pigli la propria responsabilità. E gli rispose ai giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. E questo era vero, sotto la dominazione romana non potevano mettere a morte nessuno. In questo modo, dice Giovanni, così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire, quando aveva detto: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Perché i romani condannavano a morte con la crocifissione, mentre i giudei condannavano a morte con la lapidazione. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? E Gesù rispose: dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti, ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? E Gesù, si vede che Gesù comprende che con Pilato può parlare. Mentre, come raccontano altri evangelisti, quando andò da Erode non disse nulla, non lo reputò degno delle sue parole. A Pilato parla, e dice Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Usa, vedete come Gesù usa delle parole che possono essere perfettamente capite da Pilato, militare, capo di soldati, esperto di guerre, di dominazioni, di nemici da tenere a bada. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? E rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. E alla luce delle parole di Gesù, delle parole di verità, delle parole di rivelazione, corrisponde invece una prima ombra di Pilato. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? C'è la resistenza del suo scetticismo. E così, andando avanti, c'è il contrasto tra, tutto sommato, questa correttezza di fondo di Pilato, per come lo racconta San Giovanni, che cerca di metterlo in libertà, che si rende conto che in lui non c'è nessun male, e però alla fine cede, forse quando gli dicono che in qualche modo lo fanno spaventare, perché gli dicono: non abbiamo altro re che Cesare. E tante volte tenta Pilato di dire: ecco, non trovi lui nessuna colpa, prendetelo voi, crocifiggetelo. E quando sente dire che Gesù si è fatto figlio di Dio, si spaventa: di dove sei tu? Ma Gesù non risponde. Allora Pilato dice: non mi parli, non sai che ho il potere di metterti in libertà, il potere di metterti in croce? E gli rispose Gesù: tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Ecco, Gesù conosce il peccato di tutti e anche lo valuta. E possiamo dire che in tutto questo racconto, no, tutti i peccati di chi tradisce, di chi lega Gesù, di chi, ecco, non ha l'intenzione retta nel giudicarlo, nel consegnarlo, nel volere la sua morte, dei soldati che lo maltrattano senza motivo, per crudeltà, perché non può nulla, secondo loro, e anche quella di Pilato, la sua, in ultima analisi, appunto, la sua mancanza di fortezza di fronte alla verità, la sua paura. Gesù prende il peccato di tutti, qui sono solo descritti alcuni personaggi, e lo porta con sé sulla croce. E noi, guardandolo sulla croce, come lo guarda sua madre, Maria che stava sotto la croce, e Maria madre di Cleopa, e Maria di Magdala, guardandolo sulla croce, Gesù, contemplandolo nel suo dolore, nella sua donazione totale, così come lo adoriamo durante la cerimonia del Venerdì Santo, facciamo la genuflessione davanti al crocifisso, baciamo il suo corpo crocifisso, guardandolo sulla croce, a me tornava alla mente, vedendo tutte le persone che si avvicinavano ad adorarlo, a baciarlo, quello che si racconta che Gesù abbia fatto con Santa Gemma Galgani, che pregava di fronte a un crocifisso. A un certo punto lui stacca un braccio della croce e abbraccia questa giovane donna, attirandola verso di sé. Io penso che la croce ci attrae. Gesù ha detto: quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. È la tractio crucis, la croce che ci attrae. Io penso che possiamo immaginarci la mano destra del Signore che si stacca e che ci abbraccia, ci avvicina in quanto peccatori, cioè: venite a me voi tutti, perché questa croce può perdonare tutti i peccati. Consegnate a me tutte le vostre debolezze, le vostre miserie, come disse un giorno a Santa Faustina Kowalska, che gli diceva: ma non ti ho dato tutto, mi sembra di averti dato tutto, no, ancora qualcosa non mi hai dato, le tue miserie. Dobbiamo consegnare a Gesù tutto. E così come possiamo pensare che con l'altra mano, la mano sinistra ci attrae verso di sé, verso la croce, dicendoci: venite a me e offrite a me, cioè portate verso questa croce tutta la vostra vita, tutto il vostro lavoro, tutta la vostra gioia, e la vostra vita di famiglia, il vostro apostolato, il vostro divertimento, il vostro riposo, tutto quello che è la vostra vita, perché, e in modo particolare forse le vostre sofferenze, e tutte le vostre sofferenze, perché unite alla mia croce possono diventare un aiuto alla redenzione, diventare croce santa che redime il mondo. In questo senso, io leggo quello che leggevamo nella celebrazione del Venerdì Santo dalla lettera agli Ebrei, e l'autore della lettera agli Ebrei ci dice che abbiamo un sommo sacerdote che sa prendere parte alle nostre debolezze, perché lui stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Quindi, ecco, da una parte dobbiamo portare verso la croce tutti i nostri peccati, dall'altra parte tutto ciò che non è peccato, ma che sono tante realtà grandi, belle e anche dolorose della nostra vita, perché queste sono quelle che Gesù di suo ha portato sulla croce. Tutti i nostri peccati, però poi tutta la sua vita umana senza peccato, tutta la sua sofferenza, tutto il suo lavoro, tutta la sua gioia. E allora in questo modo possiamo essere incoraggiati, come dalla lettera agli Ebrei. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, che è la croce, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Andiamo verso la croce, a guardarla, a baciarla, ad adorarla. Gesù sulla croce, il crocifisso. È molto consolante che in questa lettera agli Ebrei si dica anche: nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Forti grida e lacrime di Gesù. E quando dovesse capitare a noi di soffrire in modo tale da sentirci in grado di lanciare queste forti grida e lacrime verso il crocifisso, sappiamo che lui ci può capire, perché lui stesso le ha vissute e le ha orientate verso il Padre. Noi chiediamo alla Madonna che sta sotto la croce, che ci riceve come figli. Ecco, chiediamo alla Madonna di riuscire ad avvicinarci alla croce così, con tutti i nostri peccati perché possano essere perdonati, e con tutte le nostre cose buone perché possano diventare collaborazione con la missione redentrice del Figlio.